Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, con mia grande gioia, anzi no, con mio grande godimento, il Partizan di Belgrado ha conquistato le Final Four di Parigi, giocherà, tra le magnifiche quattro che si giocheranno l'Eurolega. Gara 4 fatale e letale per tutti, Partizan Olympiacos, Barcellona, CSKA di Mosca saranno le semifinali di Parigi il 7 di maggio. Buon pomeriggio Luca Chiabotti dalla Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio a tutti. Naturalmente c'è Flavio Suardi, forse tra un po' arriverà anche Costian Peterson che si è perso nelle nebbie. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. E, insomma, non aspettavi altro, eh? No, non aspettavo altro perché insomma il sistema Partizan è una delle mie cose preferite nel mondo del basket e questo lo sanno un po' tutti. 80024 0024 è il numero verde. Luca, Partizan Miracolo, partiamo da lì, da quel coro di quasi 23.000 spettatori alla Belgrado Arena. Che si possono moltiplicare per due in 48 ore, visto che hanno replicato il pienone in due partite consecutive. Sì, una meraviglia perché è facile parlare di scuole, di tradizioni, però alla fine bisogna vincere. Il Partizan vince, nel senso che ha degli anni buoni, degli anni meno buoni, viene saccheggiato da tutte le squadre dei cosiddetti grandi budget e trova sempre dei giocatori nuovi, dei ragazzi nuovi, spesso cresciuti da loro. Ed è proprio un inno alla gioia, l'inno al lavoro, alla passione, all'amore per la pallacanestro. E quando succedono queste cose, succedono talmente raramente, perché a occhio diciamo sono circa 12 anni che una squadra non abbastanza favorita, comunque tra le big arriva alle Final Four, quando succedono queste cose secondo me è un momento meraviglioso per la pallacanestro e proprio per la capacità di uno sport di rinnovarsi e di trovare sempre nuove emozioni. Senti, sarebbe fin troppo facile fare della demagogia applicata al nostro basket, considerato che l'età media del giocatore Partizan è 23,3 anni. E allora tutti a dire, magari adesso arrivano gli ascoltatori, ma perché non lo facciamo anche in Italia? Ma perché da noi non succede? Perché? Io non lo so perché. Neanch'io non lo so perché. Tutti dicono che là è un mondo diverso e che queste squadre non dovrebbero avere la pressione che abbiamo noi. Sono ovviamente delle grandi balle, perché se uno gioca con la maglia del Partizan davanti a 20.000 spettatori, o anche nella piccola, cosiddetta piccola Pionier, davanti a 6-7.000 spettatori, e quel tipo di pubblico, quel tipo di competenza, quel tipo di tradizione, la pressione la sente da quando ha 10 anni. Quindi non è vero niente, soltanto il fatto che qua si dà la colpa alla legge sul professionismo che non protegge più i vivai e quindi nessuno lavora più sui vivai. Poi si scopre che arriva il Partizan, che in due anni ha mandato in giro per l'Europa tre giocatori importanti e ha portato a casa un sacco di soldi. Uh-huh. E se adesso è arrivato alle Final Four è perché li ha cresciuti e li ha capitalizzati. Sono stati bravi loro, noi non siamo capaci di farlo, punto. Peraltro due americani tutto sommato inseriti in un contesto come quello del Partizan, diciamo, due americani neanche così esageratamente decisivi, voglio dire, due americani funzionali però a quello che è il sistema. È la loro scuola, nella loro grandezza, che vuol dire anche grande presunzione, perché con loro sono belle le discussioni, perché la pallacanestro l'hanno inventata loro ovviamente, non gli americani, perché se non si comincia neanche. Nella loro grandezza, nella loro grande presunzione, loro non hanno bisogno dell'americano risolutivo, non hanno tanti soldi e quindi scelgono dei giocatori che siano funzionali al momento contingente. Se quell'anno il loro vivaio non riesce a produrre un giocatore nel dato ruolo, magari lo vanno a cercare dagli americani, ma non che poi tolga spazio, luce, possibilità di crescita ai loro giocatori, che sono quello per cui loro vivono ed è quello per il quale la gente diventa matta. E nonostante tanti anni difficili, perché non ci nascondiamo che anche in Jugoslavia, in Serbia, poi con quello che è successo, di anni difficili ne hanno passati tanti, resta comunque il posto più bello dove dove crescere e giocare a pallacanestro. Sì, dici bene, il basket l'hanno inventato loro, tanto che gli americani sono il contorno, no? In questo mondo che va un po' alla rovescia, le stelle sono quelle di casa, gli americani sono quelli che invece passano gli asciugamani. No, un'altra cosa, partendo da quel dato degli spettatori, oggi sulla Gazzetta c'è un numero significativo, 49.200 sono gli spettatori delle gare 4 che si sono giocate ieri, poi naturalmente parliamo anche delle altre, quasi 50.000 spettatori solo ieri sera. A Parigi mi risulta sia già tutto esaurito per le final four di Eurolega dal 7 al 9 maggio. Fin troppo facile dire anche che il basket, quando è così ad alto livello, tira sempre. Sì, considera che in quel dato globale c'è anche la gara di ritorno in Polonia, dove la capienza non era eccessiva. 4.900. Esatto. Mentre al Pireo chiaramente sarebbero stati un altro 10.000, sì, da aggiungere a questa cifra. Certo, la pallacanestro europea a questo livello è meravigliosa ed è un grandissimo spettacolo, pari, anche se molto diverso, a quello dell'NBA, e la gente va a vederlo e trova, secondo me, delle cose molto interessanti. Le ultime Final Four, le ultime Final Four, sono state delle manifestazioni bellissime. E adesso, chiaramente, però, per arrivare a quel livello bisogna anche avere posti come la Belgrado Arena, dove se la squadra va bene si possono mettere dentro 20.000 spettatori. Ne conosci qualcuno qua dalle nostre parti? No, non risulta. Tornando alle nostre parti, parliamo un po' anche del Real Madrid. A me dispiace un sacco vedere Ettore Messina eliminato dal Barcellona. Da un certo punto di vista potevamo anche aspettarcelo. Squadra che, dicevamo, Luca fuori onda, è ancora molto poco messiniana questo Real. Sì, hanno fatto la spesa al supermarket quest'estate, quando hanno deciso che il Real dovesse tornare a essere quello anche in campo europeo, perché ormai è dai tempi di Obradovic e di Sabonis che non vince. E quindi hanno messo lì un sacco di giocatori, e alla fine anche lì, guarda un po', il giocatore più stimolante, interessante, divertente è Jul, o come lo vogliamo pronunciare correttamente, che è un ragazzo di casa, e quindi non è una squadra che gioca il basket offensivo soprattutto di Messina, perché difensivamente ha fatto vedere delle buone cose soprattutto in gara 2 a Barcellona, e poi, siccome Ettore è uno che non fa prigionieri, poi, come ci guardavamo prima, scopri che c'è Kaukenas, che è stato un grande da noi, che non è stato neanche utilizzato, altri che vanno e vengono dalle rotazioni, insomma ha dei bei problemi, e credo che questo sia solo il primo passo, e che quest'estate darà un'altra pulizia. Dopo averne mandati via tipo 10 quest'anno, ne manderanno via altri 4-5 per creare una squadra veramente alla Messina. Ci fermiamo un attimo per il traffico. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, messaggi 349 238 6666. Il primo è di Dennis da Treviso, che scrive: come sanno trattare la palla gli slavi? Non c'è nessuno al mondo, neanche gli americani, in fatto di tecnica sono i numeri uno. Per forza, Dennis, l'hanno inventata loro la palla canestro, no? Traffico, poi di nuovo qui. Palla spicchi. Abbiamo già ascoltatori, Drago da Brescia, Daniele da Treviso, poi un messaggio che non è affatto una stupidata, come lei scrive, Fabio da Milano, dico forse una stupidata ma non lo è, ripeto, e scrive: non è che forse Partizan attua a livello giovanile il modello che il Barcellona usa nel calcio, in modo che poi i giovani si inseriscono facilmente in prima squadra? C'è qualche similitudine tra Partizan e Barcellona? Basta guardare, insomma, il Barcellona di Guardiola, con tutti quei giovani che escono dalla cantera, che sono giocatori straordinari. Ma sembra... Si punta sull'identità. Ma certo, si punta sull'identità, l'intercambiabilità, il fatto che la prima squadra, almeno nel Barcellona, ovviamente non lo so di calcio, però sicuramente Vujosevic è un allenatore che allena la squadra senior in modo molto più simile alla squadra junior, e quindi quando questo tipo di interscambio continuo che c'è è facilitato dal fatto, prima di tutto, che sono anni che la guida tecnica della prima squadra è quella lì, è sempre la stessa. Poi che lui allena dei giovani e quindi li allena come se fosse, per quello che sono, dei giovani. Quindi è molto più facile rispetto a noi, dove, a parte che magari i giovani non ci sono, ma quando arrivano in prima squadra si trovano a fare allenamenti con gli americani che c'hanno voglia, non c'hanno voglia, oppure anche se hanno voglia, è un tipo di allenamento molto differente. Lì si insegna ancora a pallacanestro anche ad alto livello, e questo paradossalmente facilita il fatto che un giovane entri, poi sa che il giovane che entra sa che magari qualche giorno mette il piede in campo e sa anche che se gioca bene quel piede in campo lo tiene. Qua è un po' diversa la storia. Allora, ascoltatore Drago da Brescia, Daniele Treviso, Stefano Gorizia. Drago, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Drago da Brescia, un grandissimo saluto. Sono un serbo, per precisare. Sì, ci conosciamo già, mi sa. Ecco, volevo farvi due domande. Come vede questi gioielli del Partizan, sempre parlando, fino alla finale, e possono fare la sorpresa con Barcellona, come che hanno fatto giù a Pionir? E un'altra, se la Serbia, i giovani serbi come nazionale, è alla pari con la Spagna, se li possono battere, come la vede a vostro punto? Bella domanda, Drago, grazie. Innanzitutto il Partizan deve prima fare un miracolo con l'Olympiacos in semifinale, e io qui lo nego. Io due soldini sull'Olympiacos vincente in questa a Parigi, io li metto. Data 3,25, la favorita, per quanto abbiamo preso il classico broker che si utilizza normalmente, Barcellona 1,75, il CSKA di Mosca 6,50, il Partizan 15 volte la posta, 3,25 ti dicevo l'Olympiacos, insomma. Luca, che chance ha il Partizan realisticamente a Parigi? Ma mi sembra molto interessante anche la seconda domanda. Perché? Perché la Serbia è tornata anche a livello di nazionale, gli ultimi europei ce l'hanno detto. Il Partizan parte ovviamente come all'inizio della stagione sfavorito in mezzo a questi colossi, però ha già battuto quello che chi doveva battere, e quindi è difficile perché se un pronostico uno lo deve fare su quello che la stagione ha detto, è chiaro che è una partita aperta. È chiaro anche che sono d'accordo con te che ci sono squadre costruite poi per arrivare lì con giocatori che hanno maggiore esperienza, e uno si aspetta che sulla partita secca siano più pronti a esprimere il loro potenziale. Sulla Serbia io credo che le competizioni per squadre nazionali si basano molto anche su un certo tipo di fortuna, di accoppiamenti, di momenti, sono molto brevi, dipende un po' dagli avversari. Però sì, perché abbiamo visto che rispetto all'anno scorso, sicuramente Teodosic, che è stato la stellina dell'anno scorso all'Europeo, ha confermato, forse ha migliorato quest'anno all'Olympiacos, la sua leadership, e quindi è cresciuto. Sì. Non so se... Via dal sistema serbo in Spagna, ad esempio Veliškovic, se penso che con Ettore abbia potuto crescere anche se magari ha giocato meno. Quindi secondo me, mentre la Spagna ci si aspetta che un livello meraviglioso però raggiunto, sulla Serbia è sempre lì, non sai mai, perché questi ragazzi nel giro di un anno di solito migliorano, e quando migliorano allora già non erano così distanti e potrebbero anche farcela. Migliorano e producono, aggiungono. Quest'anno al Partizan c'è la nuova stellina Jan Beseli, che comunque è un giocatore in piena crescita, è un giocatore appena arrivato a questi livelli, e quindi ulteriore valore aggiunto per la nazionale serba in prospettiva. Daniele Treviso, buongiorno. Buongiorno. Io prendevo spunto da ieri, stavo guardando la partita del Partizan e con una marea di falli chiamati soprattutto all'inizio, e mi veniva in mente questa riflessione sul fatto che in queste partite dell'Eurolega c'è un'intensità, una voglia di vincere, comunque una pressione in campo che spesso me la fa preferire ovviamente rispetto alla regular season NBA, come diciamo, per assistere alle partite. Solo che ci vorrebbe, secondo me, un arbitraggio dell'NBA, nel senso che permette tanti più contatti, tanti più perché si vedono di quei falli veramente che non puoi neanche sfiorare l'attaccante, che il gioco è veramente spezzettato e secondo me ne perde tantissimo. Non so voi cosa ne pensiate. È successo anche ieri in Barcellona, in Real Madrid-Barcellona, un arbitraggio di questo tipo molto fiscale. Rispondo Luca Chiabotti. Sì, più che fiscale, a me quello che disturba è che rispetto a un arbitraggio NBA di solito, perché anche là ci sono arbitri bravi e arbitri meno bravi, di solito viene più rispettato lo spirito del gioco e quindi la regola, non la regola del vantaggio, la regola di un vantaggio ottenuto o meno. Quindi in queste partite si vedono dei contatti appunto che magari vengono fischiati e spezzettati inutili e quindi andrebbero evitati. Poi però magari si commettono dei falli che invece sono in Europa, che sono contro lo spirito del gioco, molto di più di blocchi di movimento, di trattenute, di queste cose che invece in America non sono assolutamente permessi. È chiaro che sarebbe bello vedere forse una cosa giusta a metà fra questi due tipi di interpretazione del gioco, anche perché diciamo in Europa non abbiamo questa assoluta necessità di salvaguardare l'uno contro uno del giocatore d'attacco che schiaccia, certo, e fa vendere i biglietti alla Coca-Cola. Possiamo anche essere un po' più terra terra, certo, e andare sul concreto, quindi certe cose mi va bene fischiarle, certe altre ecco, bisognerebbe trovare un equilibrio. Tra l'altro noi italiani forse abbiamo un'interpretazione ancora diversa riguardo l'arbitraggio, cioè si è parlato per esempio durante le partite di Siena che la Montepaschi potesse essere in qualche modo qui in Italia trattata in un certo modo e in Europa in un altro modo, forse meno abituata a un contatto fisico così esperato. Forse qui addirittura ne abbiamo ancora una terza interpretazione, non so se sei d'accordo. Ma questa è una cosa, come dici tu, di cui si è parlato abbastanza, soprattutto riguardo alla Montepaschi, alle differenze arbitrali. A me, se devo dire la verità, al di là di tutto, piace forse di più come viene fischiata l'Eurolega, anche se i nostri arbitri dicono che sono i migliori di Europa o giù di lì, a me piace un po' di più il metro di Eurolega. Certamente in Eurolega vengono concessi dei contatti maggiori, ma anche perché le squadre solitamente che giocano sono più grosse, più potenti, più forti, e quindi è tutto lì la questione, e che Siena in Italia fa quello che vuole, nel senso che anche fisicamente spesso è superiore agli avversari, e partite in cui è stata superiore agli avversari in Europa ne abbiamo viste poche. Stefano, provincia di Gorizia, buongiorno. Buongiorno. Io pensavo adesso, ascoltavo per radio, che sono in macchina, sì. Partizan Belgrado, ho 47 anni, mi ricordo il Partizan di 30 anni fa, eccetera, eccetera. Sì. Insomma. E poi ho sentito il discorso vostro del vivaio italiano, no? Delle squadre italiane. Sì. Io ho provato portare mio figlio in un vivaio di una squadra della mia provincia. Sì, che pure detto, è storicamente evoluta. Nel 70 mi sembrava altino come ragazzo. Però sì, non, gli allenatori oggi io credo che cercano il fenomeno, non vanno più a gestire il ragazzo e fargli capire che può diventare un qualcuno. Sì. Se lo trovano pronto, bene, se no, se ha voglia, bene, se no va via. Sì, no, si fa le selezioni non solo nel basket, oggi vengono fatte, secondo me, in maniera anche abbastanza sciocca, esclusivamente su parametri fisici, almeno ad alto livello, quando accade anche nel rugby, ad esempio, ne abbiamo parlato a lungo, parametri fisici sono importanti ma non sono tutto. Poi insomma possiamo discutere sul modo di gestire i settori giovanili in Italia, sui quattrini che vengono investiti sui settori giovanili, sui quattrini che vengono spesi per gli allenatori dei settori giovanili, ma quel capitolo sarebbe piuttosto lungo. Dobbiamo fermarci un attimo per la borsa, subito dopo torniamo qui con Luca Chiabotti, Flavio Suardi, con i vostri messaggi. Giusto, c'è la pausa, non c'è la borsa naturalmente, venerdì di Pasqua, me ne scordo, anche perché per noi dello sport questi giorni sono intensissimi e cruciali, altro che pausa. Ci fermiamo un attimo. Palla spicchi. Dunque torniamo sempre con noi in studio Luca Chiabotti, penna del basket sulla Gazzetta dello Sport, 800240024, numero verde per voi. Ho anche tanti messaggi. Bravi, avete detto bene, la pallacanestro l'hanno inventata loro, gli slavi, si diceva. Vivi Paspari, Kukoc, Petrovic, Divac, Raja. Potrei andare avanti e mangiarmi tutto il credito del telefonino, non è male. Tra l'altro invece c'è anche Roberto Averona che è d'accordo con uno dei nostri ascoltatori precedenti, dice: noi europei che giochiamo a basket piace l'Eurolega, meglio dell'NBA, meno spettacolo da circo e più circo e più spettacolo vero, fatto di tattica, difese e attributi. Questo forse vale per la regular season, diciamo che i playoff NBA hanno una ben altra sì, caratteristica. Però ecco, completavo la domanda con questo: secondo me la finale di Eurolega dell'anno scorso è stata uno degli spettacoli davvero più elevati in assoluto, e anche quella di due anni fa. Sì, anche perché giocano in queste squadre, negli ultimi anni sono arrivate le squadre più ricche e anche più forti e con maggiore talento. Arrivano squadre che potrebbero comunque competere, non dico a livello NBA perché le regole sono diverse, è tutto un mondo diverso, ma sicuramente il valore tecnico dei giocatori di queste partite non ha nulla di meno, e forse come lettura atleticamente magari sì, ma come lettura del gioco sicuramente non hanno niente di meno, forse qualcosa di più, delle grandi squadre dell'NBA, perché poi c'è anche l'NBA dal ventesimo posto in giù. C'è anche l'NBA dei Nets. Esatto, c'è anche l'NBA dei Nets, dei Minnesota. Così. Per cui sì, sono d'accordo, anche se a me piace l'NBA e solo bisogna rendersi conto che 82 partite sono una follia e quindi... noi siamo abituati a un mondo in cui se una squadra gioca la domenica, il mercoledì è stanca, lì giocano talmente tanto che è chiaro che il valore tecnico si diluisce troppo. Poi bisogna vendere i biglietti alla Coca-Cola, come si diceva prima. Assolutamente, per 82 volte. Per 82 volte. Luca, l'anno prossimo le avremo nel giardino di casa le Final Four di Eurolega. Non sono così convinto che riusciremo a presentare dei candidati, però intanto ci consoliamo con la riforma dei campionati. Prossima avventura, se ne parla ad aprile, visto che navighiamo nell'oro, 32 squadre professionistiche in fondo non sono un granché. Adesso si parla di 48 squadre professionistiche, una Serie A 16 e poi una Lega 2 sdoppiata in silver e gold. Questa è l'ultima trovata partorita da chi gestisce la nostra pallacanestro, perché i soldi li abbiamo, no? E quindi moltiplichiamo il numero delle squadre, moltiplichiamo il numero degli americani, moltiplichiamo tutto. Ho visto che negli ultimi due anni non ci sono state squadre che hanno creato problemi alla regolarità del campionato. Lascio raddoppia. Ma come abbiamo avuto modo di dire, le riforme sono belle se sono riforme e se hanno un senso. Chiaramente qui tutti sono partiti dalla federazione alle leghe, a tutte le squadre, a fare i loro progetti, e che di solito riguardano: aumentiamo due squadre di qui, facciamo la piramidona. Sì, perché adesso è 16, 32, che è quel multipli, no quanti andavano su, no quante ne vanno giù. La realtà, la riforma non è questa. La riforma seria è partire a vedere quante squadre ci sono in Italia che possono avere una forza economica, tecnica, strutturale, quindi impianti per fare i campionati professionistici. Certo. Chi dà queste garanzie senza togliere a chi ha già un diritto acquisito, e poi dopo da lì si capisce che tipo di sviluppo può avere la nostra pallacanestro, con l'unica variante, secondo me, che essendo comunque un campionato nazionale, un occhio ai nostri giocatori, magari non con queste quote che non hanno prodotto niente, ma comunque in qualche modo con i nostri giocatori che possano avere qualche spazio per potersi esprimere. Ma è l'unica piccola variante. Fare la gold e la silver va benissimo se questo è una struttura, dopo aver visto che ci sono i soldi per farlo, ci sono le strutture per farlo, ci sono i giocatori per farlo, e con un obiettivo ben chiaro, poi possiamo fare anche la bronze e qualche altra Lega 2. E quella di legno. Quella di legno va benissimo, però questo è dopo. Prima bisogna vedere che bisogna, prima bisogna fare i conti. Bisogna fare i conti e i conti sono economici. Chi ha i quattrini per fare lo sport professionistico ha tutto il diritto e deve avere la possibilità di farlo, ci mancherebbe altro. Chi ma ce ne sono già tanti che non hanno questi soldi già nel sistema attuale. Immaginatevi dopo. Adesso io farei un salto in Puglia, Massimo da Taranto, poi torniamo in Lombardia, Massimiliano da Como. Massimo, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo fare due considerazioni, una sull'NBA, sì, che sono d'accordo con voi che non è tanto spettacolare, anzi penso che non sia un problema di squadra, proprio di giocatori. Anche l'NBA degli anni Ottanta, a parte i Lakers e i Boston, però c'era anche una grande squadra indiana, mi ricordo anche i New York Knicks di Patrick Ewing e Starks, insomma, secondo me il livello era decisamente migliore, al di là di LeBron James, di Wade. Poi un'altra considerazione sul settore giovanile. Io ho un ragazzo di 12 anni, mio figlio, che gioca a basket, e vedo che gli allenatori non gli fanno fare, cioè i fondamentali non si insegnano più. Io vedo che il salvatore gli fa fare penetrazione, cioè arresto e tiro niente, finte niente, difesa inesistente. Adesso io non sono un allenatore, quindi non so se poi a 12 anni è troppo presto, è troppo tardi per fare questo tipo di insegnamento. Vale, a 12 anni Massimo, secondo me a 12 anni è importante che si diverta, la mia idea è questa. Poi c'è tutto il tempo per imparare, c'è tutto il tempo per cambiare, c'è tutto il tempo, sì, per fare qualunque cosa. Però Carlo, ne parlavamo prima anche con Luca. Cioè, questi discorsi dagli allenatori del settore giovanile vogliono, interessa solo vincere le partite, agli allenatori del settore giovanile non insegnano più i fondamentali, si facevano anche quando giocavamo io e te, sì, in tempi, come dire, abbastanza lontani per te, un po' meno per me. Però ecco, alla fine sono discorsi talmente ampi che ci portano a che cosa, Luca? A non fare come sempre quando si generalizza. È un modo per non risolvere mai niente, perché queste sono cose che vanno viste caso per caso. Nel caso del nostro ascoltatore, anche se non è un allenatore, probabilmente ha colto delle cose che non vanno bene, perché è vero che bisogna divertirsi, però bisogna anche cominciare a insegnare determinate cose, magari in modo divertente. Ecco, io più che sul divertirsi con gli allenatori dei settori giovanili, bisogna trovare il modo di insegnarli in modo divertente. Ai miei tempi ci mettevano tutti in fila e ci facevano ripetere per ore le stesse cose. Io mi divertivo, ma magari ero anche un po' limitato. Adesso bisogna trovare sicuramente un modo diverso per insegnare, però per insegnare. Poi mi permetto di spezzare una lancia comunque sempre nei confronti della NBA, perché ci sono momenti veramente molto interessanti, squadre molto interessanti, e soprattutto ci sono dei giocatori che magari vediamo poco perché hanno pochi passaggi sulle tante partite che ormai noi vediamo, però sono veramente dei giocatori fantastici. Se poi, come dicevamo prima, su 82 partite, su un certo modo non sono molto preparati in certe cose, però prima di dire che l'NBA ha un pozzo di talento e di giocatori francamente straordinari. Massimiliano da Como. Sì, buongiorno. Buongiorno. Scusatemi, ero in macchina, ho forse perso le ultime battute, ma riguardo ai vivai, una piccola provocazione. Ma se eliminassimo la retrocessione nella Serie A1, di modo che le società potrebbero decidere di far giocare tutti i giovani italiani, arrivare ultime anche per 10 anni, ma costruire un qualcosa? Non sono d'accordo perché siamo italiani. Cioè, io sul discorso di togliere la sinergia tra un gruppo e l'altro, io non sono d'accordo. Poi siamo sempre lì, parliamo di professionismo, devono giocare gli italiani, i bulgari, i cecoslovacchi, gli americani, devono giocare i giocatori bravi, secondo me, perché è così che questa è la strada del professionismo. Luca, cosa ne pensi? Ma sicuramente, anche se rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore, anche a me non piace la non retrocessione, non siamo maturi. E solitamente si risolverebbe a metà campionato, quando uno vede che non può più vincere, a dar via tutti i giocatori, a risparmiare, sì, e a fare, sì, delle porcherie ancora più già viste qualche volta nel campionato italiano, forse peggio. Però ecco, la grande sfida che abbiamo davanti e che nessuno è ancora riuscito a risolvere è riuscire a mettere un pizzico della nostra cultura, tra virgolette, dei nostri ragazzi, del nostro lavoro, delle nostre in questo, in modo che il nostro campionato professionistico, pur essendo aperto a tutti questi, ai giocatori più forti, dia anche un senso al lavoro di quello che c'è, di quello che sta alla base. Fino a quando noi non ci riusciremo, tutti i discorsi saranno inutili. Riuscirci è difficile, ma proprio perché è difficile bisogna parlarne, bisogna studiare, perché se fosse facile avremmo già scoperto il Busilis. Però, per carità, lasciamo qualche retrocessione, la lasciamo. Ecco, magari facciamo in modo che se una squadra retrocede non finisca in una serie che è un mare magnum di disastri, però tante volte retrocedere fa bene. Sì, ma poi questo meccanismo, insomma, noi abbiamo bisogno del sale della partita importante. Guarda quest'anno, pure in un campionato, lasciamo perdere le storie di Napoli perché abbiamo parlato anche troppo, però leva a questo campionato quell'ultimo biglietto che porti in Lega 2 e francamente due terzi delle partite non sai che senso hanno. Assolutamente. Poi tra l'altro quest'anno sta diventando veramente terribile la lotta per non retrocedere tra squadre che sono buone squadre, belle società e si sono trovate in una situazione difficile, quindi credo che sarà molto più divertente per chi non è tifoso, per chi non gioca in quelle squadre, ma per chi osserva sarà molto più divertente vedere cosa succede in coda che, certo, che in alto. Sì, anche perché in alto ci consoliamo con i miracoli di artigianato, no? Esatto. Montegranaro, Cantù, Caserta. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno, non so se ho perso un pezzo perché no, ma non si perde niente. Poi c'è anche, si può sentire anche in podcast, no Flavio? Sì, podcast, va bene, assolutamente. Allora, c'è il gruppo su Facebook, che non dimentichiamo, che oggi è tutto pieno di una beneficiata a favore del Partizan, e dovrebbe farti contento. Miei amici, Paolo, eccoci. Allora, io sono cresciuto negli Stati Uniti negli anni 60-70, sì, a New York, ai tempi dei Julius Erving, New York Nets, come no, Bill Melchioni, Carnasecca, poi i Knicks di Willis Reed, Walt Frazier. Allora, per noi il basket era uno sport molto molto importante. L'osservazione che vorrei fare è, io sono trasferito in Italia 20 anni fa, e per noi in America calcio era, e devo dire in quei anni, per chi non era fisicamente preparato per giocare a football, sì, americano. Era, ragazzi, era, non è più così. Però era uno sport più di finezza. Sì. Venendo qua, guardando le partite di basket all'inizio, e poi ho avuto l'opportunità di conoscere Mike D'Antoni ai pranzi per gli americani, sì, non sapendo neanche chi era. Bravissima persona, super umile, ma non sapevo che era uno dei star più, sì, forte di tutti i tempi. E lui mi ha parlato un po' delle regole, perché avevo tante domande. Quella mia osservazione è, secondo me le regole in Europa appartengono troppo dal lascia andare, come in calcio, per dire calcio assolutamente non è uno sport di non contatto come, sì, noi in America pensavamo. Calcio è uno sport di contatto. Lei dice regole quali? Parlo di lasciando andare un gioco più fisico, sì, chiudendo un occhio a un ovvio holding, sì, i, sì, falli, sì, sì, non i detti touch foul. Sì, ma io, guardi, io da questo punto di vista sono dell'idea che ha espresso prima Luca Chiabotti, cioè secondo me il discrimine nel modo di interpretare il discrimine corretto, quello che a me piace è quello del vantaggio acquisito. Non regola del vantaggio per l'appunto, però un vantaggio nel compiere un certo gesto ai confini del regolamento. Quello è il modo che preferisco nell'interpretazione della pallacanestro ed è grosso modo un sistema più praticato in Eurolega che non nel campionato italiano. Traffico. Palla spicchi. Dunque, ecco che torniamo. A che punto eravamo rimasti? Eravamo rimasti al gioco fisico, gioco più o meno fisico. Io stavo pensando alla mia giocata sull'Olympiacos invece. Tu stai giocando alla tua giocata. Io ormai invece qualcuno ci critica, come Stefania scrive: guardate come giocano gli Orlando Magic, e poi ditemi chi in Eurolega gioca meglio a pallacanestro. Assurdo criticare l'NBA, non se ne parla abbastanza qui in Italia se non per parlare degli italiani. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno. Sentito Stefania il messaggio, te lo rileggo? No, ho sentito più o meno, diceva si parla troppo poco di NBA e gli Orlando Magic giocano come nessuno in Eurolega. Sì, assurdo criticare il basket NBA, no, perché sai, siamo lo stesso discorso dell'Eurolega, NBA, eccetera, eccetera, eccetera, discorso fatto mille volte però, mi pare, Flavio. Piuttosto si parla troppo di NBA solo per parlare degli italiani, questo magari è anche vero, Guarda, io penso che ci sia un minimo comune denominatore tra tutte queste cose, cioè anzi un paio. Il primo è: non vedo perché io dovrei legarmi a un carro per forza, ma perché devo scegliere tra l'NBA, l'Eurolega, l'NCAA o la promozione? Scelgo di vedere del basket che mi piace, del bel basket. Presumo ci saranno belle partite in NBA, belle partite in NCAA, belle partite in Eurolega, belle partite in Serie A. Poi le generalizzazioni sono interessanti, sì, ma onestamente lasciano il tempo che trovano. A uno può non piacere l'Eurolega se ieri non ha gradito vedere Barcellona-Real Madrid o i 20.000 della Belgrade Arena, è evidente che ha un pre-trattino giudizio, oppure non gli piace la pallacanestro, ma allora non gli piace, stop. Senti Flavio, con Luca Chiavotti qui presente si stava anche ragionando sulla Lega 2 Gold e Silver, sulla riforma dei campionati e sulla moltiplicazione dei pane e dei pesci dei professionisti. Questo sì che è divertente. Non saprei che cosa dirti. Io rimango di un'idea anche qui molto semplice e molto basic, ovvero sia, se siamo professionisti, siamo professionisti, e pensare di gestire il movimento professionistico attraverso la struttura di una serie A1, A2, A16 o A18, di due serie B1 in cui l'età complessiva di quelli che giocano playmaker sia di 238 anni oppure di 250, se le ali allora assommano, a me sembrano strumenti che assolutamente non sono quelli giusti per governare un movimento di professionisti. Per governare un movimento di professionisti ci vogliono un business plan, un conto profitti e perdite, un piano di marketing, una flessibilità nell'agire sul prodotto, quindi sul gioco, sulle arene, eccetera, eccetera, anzi sui palazzetti dello sport, perché siamo in Italia. Io la vedo così, ma probabilmente mi sbaglio io. Beh, abbiamo detto, no, Luca? Di società professionistiche in questo momento non ce ne sono tantissime nel nostro campionato, sul serio. Esatto, perché il professionismo non è la legge 91, peraltro pessima per la pallacanestro. Il professionismo è avere prima di tutto la capacità di pensare di guadagnare dei soldi, perché guadagnare dei soldi non è brutto, guadagnare dei soldi è il fine del professionismo e permette di fare squadre e investimenti sempre migliori, avere palazzi sempre più belli, portare la gente a vedere spettacoli migliori in modo più comodo e magari ancora portare altri appassionati e altri giocatori nel nostro mondo. Per cui pensare che uno diventi professionista perché diventa una SRL, capitale sociale 1000 euro che ci possiamo mettere qua noi, la facciamo senza grossi problemi, salvo poi affrontare dei campionati troppo sbilanciati e fallire dopo poco. È proprio una mentalità che bisognerebbe cambiare e che invece proprio in questo momento... nessuno voglia cambiare, si pensi ancora di fare le cose agendo sul numero delle squadre e sulle queste cose qua. Allora, ascoltatore da Verona, Radoie, buongiorno. Sì, buongiorno, sono molto lieto a sentire la vostra trasmissione, poi in giornata come questa puoi immaginare. Sì, anche perché da nome e voce mi fanno pensare a una matrice slava. Io ho il cognome Petrovic, per cui è tutto un... Niente, io spesso sento le vostre, chiamano le lamentele sui giovani, no? Che non riescono a uscire fuori. E mi viene spesso in me qualcosa della mia esperienza che potrebbe veramente sembrare ridicola, è la questione dei campetti. Sì. E sarebbe, voi spesso avete ospiti anche ex giocatori slavi, sì, con sì, esperienza sì, italiana, certo. E sarebbe interessante sentire loro parlare dei campetti, cosa succede nei campetti. Perché penso che il primo approccio che hanno i giovanissimi con pallacanestro, e in sé in Jugoslavia, penso in America pure, sì, sono un'istituzione da sé, è molto importante come una certo, membrana, diciamo, dei giocatori futuri. Ma guardi, ma lei ha ragione, per quello che prima l'ascoltatore che è intervenuto parlando di come viene iniziata la pallacanestro suo figlio di 12 anni, dicevo importante divertirsi, perché non c'è solo quell'ambito istituzionale tra virgolette in cui giocare a pallacanestro. Se poi uno si diverte, se poi uno a uno piace giocare a pallacanestro, va a cercarsi anche altre sedi meno istituzionali del campo di allenamento. Flavio, ci sono ancora i campetti a Milano? Ma ci sono, ma sono meno frequentati per una vasta serie di motivazioni che credo attengano al sociale o al parasociale, e comunque ce ne sono probabilmente numericamente gli stessi o meno di quelli che frequentava Luca Chiabotti. Io non ero buono neanche per i campetti, però questo è un problema su cui temo le leve che possono utilizzare le società professionistiche siano limitate, posto che mettere dei soldi in questo tipo di attività servirebbe a fare i giocatori, gli arbitri, i dirigenti e soprattutto gli spettatori, gli appassionati di domani e dopodomani, che sono tutte cose che servono anche alle società professionistiche. Però siccome dovremmo avere teoricamente un'istituzione che ha come mission principale lo sviluppo della pallacanestro in Italia, magari sarebbe meglio se dedicasse a questo e non a quanto è il numero delle squadre di A, di B, di C, o a far diventare con un tratto di penna, virgolette, professionista, chiusa le virgolette, una squadra o una società. Senti, se mi gioco due soldi sull'Olympiakos, no, mi interessa molto, prima di andare in ricevitoria, il tuo parere per Parigi, cosa ne pensi? È una giocata interessante. Però onestamente io credo che Michael questo Barcellona sport abbia sempre una logica e alla fine il Barcellona, che ha passato una crisi, che ha già perso l'anno scorso, che ha fatto un percorso per arrivare fino a qui, io penso che il Barcellona vinca quest'anno, l'Olympiakos l'anno prossimo. Insomma, mi bocci l'idea, ho capito, niente giocate. No, vai tranquillo. Grazie Flavio. Un abbraccio. Ciao Flavio, ciao. Alla prossima. A domenica siamo qui, dalle 8:30 alle 9. Domani sera si gioca alle 8:30 al campionato e domenica sera ne parliamo nello spazio istituzionale della domenica su Radio 24. Me la bocci anche tu l'Olympiakos? No, io non lo boccio, perché il Barcellona meriterebbe di vincere e siccome purtroppo non sempre chi merita vince, l'Olympiakos è un'altra squadra che ha fatto un grande cammino in questi due anni e che quindi si presenterà lì per vincere i giochi, tanto magari... Ma sì, dai, io mi fido. Linas Kleiza e Teodosi sono due giocatori mostruosi. Penso se proprio il tuo Partizan ti manda a monta la giocata. Mamma mia, che dolore. No, intanto perderei con grande piacere, dico la verità. Grazie Luca, buona Pasqua. A tutti, grazie. Grazie Flavio Suardi. Ciao, auguri a tutti. Franco Piantanida in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo con lo sport, naturalmente domani pomeriggio tutto il calcio, e quindi saremo qui dalle 5 alle 6, regolare.